Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi e benvenuti. Andrei subito ai titoli del nostro sommario. In regia la parte tecnica, Giorgio Matè, in redazione Laura Vanossi. Sul cucuzzolo della montagna, pronti a sciare. Pausa caffè? Fa bene alla nostra schiena. In piazza, la stella dell'Ail. Oggi dagli studi di Via Monterosa proviamo con l'immaginazione, ahimè solo con l'immaginazione, a trasferirci sulle piste da sci. La prima neve è arrivata e complice questo weekend lungo, sicuramente tutti gli appassionati non si faranno scappare l'occasione di andare in montagna, di fare un saltino sulle piste. Oggi ha fatto un saltino da noi, dopo due venerdì d'assenza, diciamo giustificata, ma non so, è tornato a trovarci il nostro amico medico dello sport Franco Confalonieri. Dottore, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Allora, lei come se la cava sugli sci? Andrà? Bah, diciamo che con questi nuovi sci carving sono rinato, nel senso perché per parecchi anni non ho più sciato. Poi ho ricominciato qualche anno fa, lo trovo molto più facile, molto più semplice, ho ricominciato e probabilmente andrò anche questo weekend. Ma noi oggi parleremo di sci, non in generale, faremo delle differenze, perché parleremo dello sci alpino, dello sci di fondo, d'alpinismo, dello snowboard, anche del nordic walking, insomma anche delle ciaspole, perché ciascuno sceglie un po' in base alla sua attitudine, ma anche magari perché ha deciso, no? Ci sono anche tante persone che si convertono, facevano sci da discesa e poi iniziano a fare sci da fondo. Dottor Confalonieri, lei di solito si pensa, no? Quando vado un pochino più in là con gli anni, invece che buttarmi giù dalle piste, mi metto gli sci da fondo e vado a farmi un bell'anello. Sì, direi che... Ma lì si sbaglia, perché è durissimo. Esatto. Ecco. Spaventosamente duro. Direi che il concetto di sci si è molto allargato nel tempo ed anche le scelte delle persone, degli appassionati, si sono molto diversificate. Per cui abbiamo un po' lo sciatore classico, quello che fa sci da discesa utilizzando gli impianti di risalita, comunque rimane la grande maggioranza, sceglie prevalentemente il divertimento oltre che il contatto con la natura, e attualmente si differenzia tra il fruitore dello sci classico e il fruitore dello snowboard, che è più giovane mediamente come tipologia, e le caratteristiche di queste persone sono comunque simili: l'impegno muscolare articolare è molto elevato, l'impegno fisico relativamente meno elevato. Poi c'è l'appassionato di sci da fondo che sceglie invece una fatica maggiore, un esercizio con un ritorno molto più importante a livello fisiologico, un forte contatto con la natura. Ed infine, in grandissima diffusione, ci sono coloro che scelgono lo sci alpinismo e quindi coniugano l'aspetto di fatica e di rapporto solitario con la montagna con l'aspetto del divertimento, e cioè della discesa, che in questo caso il più delle volte è fuori pista. Ci piacerebbe proprio, lancio un messaggio, sapere dai nostri ascoltatori voi quale tipo di sci preferite, quale avete scelto e perché avete scelto questo tipo di sci. Ma noi abbiamo degli ospitoni oggi, dottor Confalonieri. Per festeggiare un po' il suo ritorno, ho invitato a raggiungerci Stefania Belmondo. Ciao Stefania! Buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie per essere con noi. Prego. E anche da parte del dottor Franco Confalonieri, che quando gli ho anticipato prima di metterci le cuffie che saresti stata presente, mi ha detto: oh, ma che regalo. Perché che regalo, dottor Confalonieri? Perché è stata una delle più grandi atlete dello sport italiano in assoluto degli ultimi anni, ed è anche una persona eccezionale che credo potrà aiutarci ad amare un po' di più la montagna e lo sci da fondo. Infatti a Stefania Belmondo chiederemo di fare un appello per cercare di appassionare sempre più persone allo sci da fondo. Ma in linea con noi abbiamo un altro campionissimo, Giorgio Rocca. Ciao Giorgio. Ciao a tutti, buongiorno. Grazie, questa è veramente una trasmissione di stelle, perché ci raggiunge e ci ha raggiunto anche Maurizio Fondriest. Ciao Maurizio, grazie. Ciao a tutti, saluti a Giorgio e Stefania. Senti Maurizio, tu dopo una brillante carriera nel ciclismo adesso non è che poi sfondi anche nello sci d'alpinismo, eh? Assolutamente no, cioè, per me no, è solamente un divertimento. Bene, ma io inizierei con Stefania. Stefania, sci da fondo, faticoso, io l'ho provato, mi piace molto, però che fatica. Grazie, beh, voglio salutare tutti quanti, da Giorgia, Maurizio e il dottor Confalonieri, che mi ha fatto sorridere quando prima avete parlato di sci di fondo e ha detto spaventosamente faticoso. Mi ha fatto sorridere. Che fatica, sì, però un giorno un signore, un americano, diceva: quando provi il brivido, no, nello sport, ebbene, per me fare sci di fondo è sempre stato provare quel brivido di passione, perché la passione per sì, anche per la fatica, se vogliamo, no? Poi per l'ambiente che ti porta a vedere lo sci di fondo, perché vi faccio solo un esempio brevissimo: ieri per la prima volta ho sciato di quest'anno, era meno 13 a casa mia, però potete immaginare, certo, neve che scricchiolava, questi alberi carichi di neve, ecco, cosa c'è di più bello di questo? È vero, Stefania, ci sarebbe piaciuto essere lì con te, però ce l'hai descritta così bene che quasi quasi ci eravamo da fianco. Giorgio, sì. Quest'anno Stefania ci ha già portato in mezzo alla neve, tra l'altro ci sarà una buona neve quest'anno, no? Promette bene? Sì, fantastico, tutti erano un po', perché il panico delle nevicate anche in città ha messo in difficoltà un po' tutti, però credo che noi che viviamo di sci e che da bambini eravamo felici quando nevicava, lo siamo stati anche negli ultimi giorni, quindi sarà un inverno con neve naturale e gli sciatori davvero non potranno lamentarsi, perché la neve migliore di quella naturale non esiste, perché negli ultimi anni purtroppo a volte si è sciato spesso su nevi artificiali, più ghiacciate, più difficili, insomma, se non si hanno gli sci preparati e se non si è preparati fisicamente si fa più fatica, invece con questa neve naturale davvero soffice da grandi soddisfazioni. Anche Maurizio, l'hai già provata questa neve, mi immagino. Sì, certo. Quanti giri ieri, ti sei ieri, fatto? Sì. Ieri con gli sci d'alpinismo sono salito fino in cima alla mia montagna, 2000 metri, avevo fatto 1500 metri di dislivello e è stata una cosa fantastica. Per questo io sono molto d'accordo con Stefania Belmondo quando si dice che è la fatica bestiale. La fatica non è detto che sia una cosa brutta, anzi per me è una cosa, se è fatta nel modo giusto, soprattutto per chi non fa agonismo, perché quando fai agonismo la fatica è una fatica bestiale, perché per vincere devi superare l'avversario e quindi devi dare il 110%. Quando, sì, come noi adesso che siamo degli ex, facciamo sì fatica, perché è una grande fatica, però la soddisfazione che ti dà quando arrivi in cima con tutte queste, c'era un metro e mezzo, 1,80 m di neve, e con la neve sugli alberi, la soddisfazione che hai quando arrivi in cima ti ripaga 100 volte della fatica che hai fatto. Quindi per me la fatica, fatta in un certo modo, è una bella cosa. Senti Maurizio, perché tu hai scelto di fare sci d'alpinismo? Ma guarda, io vivo in zona di montagna, quindi fin da piccolo facevo sci di discesa. Poi logicamente ecco, lo sci di discesa, Giorgio si allena tantissimo in maniera molto, molto dura, però è un allenamento diverso, mentre lo sci da fondo è molto più vicino alla bicicletta, dove alleni molto più il cuore per molte ore, quindi la fatica un po' è diversa. Io quando correvo in inverno amavo fare lo sci di fondo per allenarmi per la bicicletta, sì. Poi negli ultimi anni da ciclista ho scoperto, così tramite amici, lo sci d'alpinismo, e da lì non l'ho più lasciato. Ho iniziato a allenarmi il mese di dicembre con gli sci alpinismo, però da quando ho smesso di correre metto gli sci alpinismo da dicembre fino a marzo. Giorgio, scusa, Maurizio diceva Giorgio si allena molto, beh certo, ma secondo te per tutti coloro che amano fare sci da discesa e che in questi giorni si metteranno gli sci ai piedi, magari non tanto allenate, hai qualche consiglio da dare? È un po' tardi purtroppo. È vero, però, bisognava pensarci prima. Chi magari frequenta regolarmente la palestra e cerca di tenersi in forma, sicuramente per loro sarà più facile, anche se sono sempre i primi giorni quelli che magari vanno presi più con calma. E soprattutto, secondo me, bisogna andare a sciare presto il mattino, evitare di continuare a sciare quando si è stanchi, quando ci si stanca pomeriggio, che magari le piste sono meno ben battute, perché comunque con tanti passaggi si creano dei cumuli di neve che poi, sì, quando si è stanchi si può rischiare di cadere. Infatti, questo è un consiglio, è un consiglio da grande campione. Stefania, vuoi dare un consiglio anche tu per chi invece che scendere dalle piste si fa qualche anello da fondo? Sì, beh, innanzitutto prepararsi un pochino prima, non pretendere di magari mettere gli sci e fare subito un anello di 5 km o riscaldarsi anche un pochino prima di andare. E poi io volevo anche dire una cosa, non so cosa ha detto Maurizio perché sinceramente non lo sentivo molto bene, però io faccio anch'io alpinismo, faccio anch'io sci di discesa e devo dire che mi diverto tantissimo. Però vorrei dire alla gente che fa alpinismo di farlo soprattutto con la testa, perché è vero che è bello tutto quanto, però bisogna usare anche certi criteri, non andare certe giornate in cui magari è particolarmente pericoloso. E poi comunque invece per lo sci di fondo, beh, andate, divertitevi e godetevi la natura. Allora io ringrazio Stefania, Giorgio e Maurizio che ci hanno aiutato. Grazie a voi. Grazie, ci hanno aiutato, ci hanno fatto sognare, ci hanno fatto battere il cuore sempre, no? E quindi grazie, io vi mando anche un bacio. Invece il dottor Confalonieri cosa vuole raccontare? No, direi che hanno proprio contribuito a creare questo desiderio di neve nei suoi diversi aspetti. Volevo sottolineare soltanto due cose. La prima, indubbiamente, sia lo sci da fondo che lo sci ed alpinismo significano fatica ed è giusto essere consapevoli di questo, però danno anche la possibilità di graduare molto questa fatica, nel senso che non c'è comunque un sovraccarico importante a livello articolare e possiamo iniziare con uscite brevi e quindi alla portata anche di persone relativamente poco allenate. Mi trovo invece totalmente d'accordo col consiglio di Giorgio rispetto al fatto di scegliere le prime ore per sciare, perché si trovano le piste migliori e se magari siamo andati, abbiamo raggiunto gli impianti camminando, bastano 10 minuti, un quarto d'ora di cammino, evitare di arrivare con la macchina sotto l'impianto, siamo anche sufficientemente riscaldati per godere le piste nel migliore dei loro aspetti e non rischiare di farci male. Allora grazie a Stefania, Giorgio e Maurizio, alla prossima, fatevi una buona sciata da parte nostra. Grazie. Okay. 824 00 24. Diteci che tipo di sciatore siete, se vi siete preparati, come, se pensate di mettere gli sci ai piedi proprio questa fine settimana e quale tipo di sci. Oppure se c'è qualche problemino che vi impedisce di sciare, di dedicarvi alla vostra passione, chiedeteci, magari proviamo ad aiutarvi, perché magari non questo weekend ma già a Natale possiate ritornare in pista. Magnifico. 824 0024, questo è il nostro numero verde, i messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. Parliamo di pausa caffè. Bene, è un toccasana, sembrerebbe, per la nostra schiena. In linea con noi abbiamo il dottor Stefano Negrini, medico fisiatra e direttore scientifico di ISICO, che è l'Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale. Dottor Negrini, non facciamoci sentire, parliamo piano. È vero che facciamo bene a fare la pausa caffè? Più pause caffè, così la nostra schiena ci guadagna? Assolutamente sì, sia per la schiena ma anche per l'attenzione, perché è noto che dare un attimo di pausa è sempre molto utile. La nostra capacità di attenzione dura circa 40 minuti e la schiena più o meno ha gli stessi tempi. Purtroppo rimanere fermi la schiena non piace, quindi la pausa caffè è estremamente utile anche per la schiena. Senta, al punto di partenza della vostra riflessione è stato uno studio canadese che ha messo in evidenza che uno strumento ergonomico perfetto non esiste, quindi l'unica soluzione possibile è muoversi, anche perché, mi corregga se sbaglio, l'uomo, l'abbiamo detto tantissime volte anche qua con il dottor Franco Confalonieri, non è fatto per stare seduto. Assolutamente, il nostro corpo è progettato per il movimento, purtroppo noi lo costringiamo a stare seduti perché le nostre richieste quotidiane richiedono di lavorare da seduti o comunque in posizioni fisse, prolungate, e questo in ogni caso conduce a sofferenza alla schiena. Anche le attrezzature ergonomiche migliori, anche le sedie più costose, alla fine se ti obbligano a star fermo, rendono comunque difficile la vita alla schiena, e non solo alla schiena, in realtà anche a tutte le altre muscoli e articolazioni, perché quello che succede è che i muscoli, stando fermi, in qualche modo vanno in carenza di ossigeno, perché per attirare sangue il muscolo ha bisogno di contrarsi e rilasciarsi, e questo avviene solo durante il movimento. Se invece noi stiamo fermi e manteniamo contratti i muscoli a lungo, l'ossigeno non arriva, e questo succede a livello della schiena non solo per i muscoli, ma succede anche per i dischi intervertebrali, che non sono nutriti dal sangue direttamente e che per poter ricevere l'ossigeno hanno bisogno che l'ossigeno passi attraverso addirittura l'osso delle vertebre, e quindi il movimento per la schiena è ancora più importante che per altri muscoli e per altre articolazioni. Quindi se il caffè non ci piace, sgranchiamoci le gambe ogni tanto, andiamo a fare un giretto, parliamo con un collega. Vedo Giorgio Matè che, dottor Negrini, si è subito alzato e ci sta seguendo in regia in piedi, quindi ha preso proprio alla lettera il suo consiglio. Ogni quanto convierrebbe, dottore? Ma ogni 40 minuti, infatti in realtà non possiamo fare una pausa caffè ogni 40 minuti, no, a parte il datore di lavoro, certo. Ma anche diventeremo troppo nervosi. Allora si possono prendere le piccole scuse, squilla il telefono, invece di rispondere al telefono da seduti ci si alza, sì. Oppure se si deve prendere qualche cosa ci si alza, si fa il giro della scrivania, ci si risiede, prenderlo si prende, si va a fare le fotocopie, insomma con le strategie di movimento che sono un gran toccasana e che faranno stare molto meglio tutti quelli che ci ascoltano. Grazie dottore per essere stato con noi, non so se lei l'ha già fatta la sua pausa caffè, se mi ha parlato in piedi o seduto, comunque le ho parlato seduto, ma è tutta la mattina che mi muovo e sono in attesa di andare a sciare anch'io. Ah, fa un gran bene alla schiena. Fa un gran bene alla schiena. Grazie dottor Negrini, buona giornata. Niente. Arrivederci, buongiorno. Pronto soccorso. Allora, noi siamo pronti ad andare sul cucuzzolo della montagna, ci prende per mano il dottor Franco Confalonieri, sono arrivati già tantissimi messaggi al 349-238-6666, alcuni molto lunghi, ad esempio un ascoltatore ci scrive: non ho mai sciato, ma lo sci da fondo mi attira molto, sono un corridore, quindi ho un po' di base atletica, ma che attrezzatura serve per praticarlo, costa, insomma. Ci sono degli sport che si assomigliano, che possono in qualche modo essere preparatori rispetto allo sci? Ma sicuramente lo sci da fondo è fortemente correlato sia col ciclismo che con la corsa. Sì. Per cui tutti coloro che praticano abitualmente ciclismo e corsa è molto utile che lo alternino durante il weekend con la sci da fondo. Tra l'altro è uno sport relativamente semplice dal punto di vista coordinativo e tecnico, cioè quasi tutti possiamo farlo, magari non perfettamente, però in modo relativamente efficace già la prima volta che andiamo, l'attrezzatura la possiamo noleggiare, quindi anche quotidianamente nell'allenamento dei ciclisti e dei corridori anch'io utilizzo lo sci da fondo proprio come lavoro collegato e mi trovo benissimo. Allora, sono stato operato di crociato anteriore, se passo dallo sci allo snowboard evito problemi ai legamenti? No. No, direi che le sollecitazioni ci sono allo stesso modo, anzi, tutto sommato le sollecitazioni dello snowboard sono superiori alle sollecitazioni dello sci, soprattutto con i modelli tipo carving, però voglio dire, se l'operazione è andata bene, è stata fatta un'adeguata rieducazione, il tono muscolare è tornato a quello iniziale, non ci sono controindicazioni a sciare. 800-24-0024, ci scrive anche al 349-238-6666 Mary da Venezia. E dice e ci scrive: a 42 anni posso imparare a sciare? Sicuramente sì, lo sci è relativamente complesso da un punto di vista tecnico, però mi ripeto per l'ennesima volta, con i nuovi attrezzi è diventato molto più semplice. L'importante è non avere fretta, iniziare dalle cose più semplici e soprattutto affidarsi a un maestro e non farlo da autodidatta. Stefano ci chiama proprio da Venezia, come ci ha scritto Mary. Stefano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, salve, sono Stefano, sì. Stefano sta partendo per andare a sciare? No, ancora no, la prima uscita la faccio il weekend dal 19, perché ecco, diciamo, volevo dare la mia, diciamo così, diciamo da persona che scia da 26 anni, io ho 43 anni, e praticamente da quando ho abbandonato il calcio vado in palestra 2-3 volte alla settimana. Sì. E poi inizio a settembre con la prescistica. Bravo Stefano. Ecco, per cui, e poi comunque quando arrivo su nelle piste, non è che prendo e vengo giù subito, ma faccio un attimino di stretching, perché comunque la temperatura è sempre un po' rigida comunque, e allora... Senta Stefano, ma lei dove va a sciare ad esempio? Allora, ma se posso dire le località, diciamo che io spesso vado in Alta Badia, che lì è un comprensorio fantastico, sono proprio, cioè loro la neve, proprio la, se non c'è la fanno anche d'estate, voglio dire, perché sono bravissimi. Senta, ma quest'anno ha detto Giorgio Rocca che la neve sarà particolarmente bella, perché neve naturale, quindi piacevolissima, e si prospetta una stagione magnifica, e soprattutto diventa poi una stagione veramente salutare. Anche per i nostri muscoli, se come ti fa Stefano. E poi un'altra cosa, se mi lascia un attimo, un secondo, e chi magari va su con gli amici e magari loro dicono guarda vieni su con noi, ti insegniamo noi, e non è niente di più sbagliato, poi il professore può confermarlo, perché gli amici ti fanno fare una discesa due assieme, poi loro prendono, vanno, ti lasciano lì. Quindi non fidarsi, non fidarsi degli amici. No, io ne vedo tanti. E poi un'altra cosa, chi non va in palestra... Sì? E che magari piace fare la corsetta, di preferire fare a volte dei percorsi sali-scendi. Sì. Sali-scendi, che così il muscolo, diciamo, ci guadagna, si prepara. Grazie, Stefano. Ecco. Lei ci ha dato dei consigli davvero preziosi, e devo dire che ha un po' spiazzato anche il dottor Confalonieri. Cosa le resta da dire? Stefano è stato preciso. Sul fatto che dagli amici ci guardi Dio, sono assolutamente d'accordo. Relativamente alla preparazione, sì, però non spaventiamoci. Tutto sommato, se anche non abbiamo fatto ginnastica durante questi mesi, non neghiamoci la gioia di una sciata. Ricordiamoci di fare due cose. Arriviamo alle piste camminando, l'ho già detto, ma è fondamentale, 15-20 minuti di cammino prima sono perfetti, e iniziamo a sciare alternando brevi tratti con pause che ci consentono anche di guardare il panorama, così non affatichiamo inizialmente, quando siamo più a rischio, i muscoli, e possiamo gradualmente abituarci allo sforzo specifico dello sci. Andiamo a Roma, ci chiama Angelo, buongiorno! Buongiorno, complimenti intanto per la trasmissione. Senta, io chiamo per due cose. Una, visto che sento il suo ospite per la pausa caffè, visto che faccio un lavoro non molto spesso in piedi, e sono conducente di linea, quindi la maggior parte del mio lavoro lo deve essere sostenuto. Sì. Volevo sapere, quindi adesso prenderò alla lettera magari di cercarmi di muovere e alzarmi a miei piedi per sgranchirmi un po' le gambe. Bravo. E invece per mio figlio, siccome dall'altro anno gli è stato diagnosticato un valgismo, volevo pensare, siccome lui gli piace molto sciare, se è controindicato per lui o potevo fare un altro tipo di sport. Grazie Angelo. Dottor Confalonieri, poi parleremo proprio di bambini e di sci, ma possiamo anticipare e dare una risposta ad Angelo? Sì, direi che il ginocchio valgo è comunque una patologia, se così possiamo chiamarla, molto diffusa, e non deve rappresentare una controindicazione in assoluto allo sci. Sarebbe utile in assoluto, non soltanto rispetto allo sci, che questo bambino facesse un minimo di ginnastica di rafforzamento del quadricipite e degli adduttori, in modo tale che stabilizzasse questo ginocchio, e quindi il sovraccarico sia nella vita quotidiana sia nello sci si riducesse con minori conseguenze. Però assolutamente credo possa sciare divertito. Siamo tornati insieme oggi, una puntata dedicata allo sci. Se volete intervenire, 824 0024. Ma adesso vorrei commentare, dare spazio ad una buona notizia che rappresenta un passo avanti nella medicina rigenerativa. Si tratta della possibilità di riparare i nervi. Ne parliamo con il professor Comi, che è direttore dell'Istituto di Neurologia Sperimentale del San Raffaele, che è tornato a trovarci. Professor, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Beh, direi che questa è in realtà una ricerca, una delle prioritarie del nostro istituto, che si basa sulla inserzione nell'ambito di un pezzo di nervo che è stato tagliato, come succede per una ferita, per un trauma della strada, di una guida che deve servire per far ricrescere il tessuto nervoso. La novità e la peculiarità è che questa guida è una guida fatta di biopolimeri, cioè di materiali biologicamente attivi, che consentono una ricrescita più rapida e più efficiente delle fibre nervose. Abitualmente si usava un pezzettino di vena per fare da guida alla fibra nervosa che doveva ricrescere, crescere. Noi invece inseriamo questo materiale sintetico che risulta essere infinitamente più efficace, almeno in base ai dati che noi abbiamo potuto osservare in animali in cui avevamo in determinato una lesione e che poi risultavano rigenerati in modo molto più efficiente rispetto a quello tradizionale. Ovviamente adesso si tratta di confermare nell'uomo tutto questo, sta partendo una sperimentazione qui a San Raffaele e speriamo quindi che i dati così positivi nell'animale vengano confermati e quindi sia possibile mettere a disposizione questa nuova strategia. Grazie professore. Buongiorno e grazie. E torniamo a parlare di sci, dottor Confalonieri. Ma allora, lo sci è piacevole, è uno sport che possiamo fare in inverno, poi da noi che l'inverno non finisce mai, però fa bene o no? E soprattutto, quali sono i vantaggi e se vogliamo anche i limiti di ciascuna specialità? Ma lo sci fa bene in tutte le sue forme, in tutte le sue manifestazioni. Ovviamente dobbiamo un po' differenziare. Diciamo che lo sci da discesa sicuramente consente una tonificazione muscolare importante, soprattutto degli arti inferiori e della schiena. Sì. È utile ed efficace anche a livello cardiovascolare, però si tratta di uno sforzo intenso, per cui il mio consiglio sarebbe proprio di gestirlo come sforzo intervallato. E cioè, soprattutto se non scendiamo molto lentamente, con molta calma, con lunghe diagonali, magari alterniamo un minuto e mezzo di discesa veloce con 30 secondi, un minuto di pausa. O se no, discese lunghe, ma diagonali lunghe, pendenze ridotte, quindi uno sforzo continuato. Per quanto riguarda lo sci da fondo, è estremamente efficace, è uno degli sport più completi e migliori che esistano sul piano della salute, perché migliora l'efficienza respiratoria, l'efficienza cardiovascolare e potenzia in modo armonico gambe, braccia e tronco. Possiamo, quindi da questo punto di vista è avvicinabile al nuoto. Dato che stiamo parlando di sci da fondo, a rispondere ad Amelia che ci scrive se è vero che lo sci da fondo fa dimagrire? Sì, è anche efficace in termini di dimagramento. Dai, perché fantastico. C'è un consumo metabolico elevato, oltretutto lo facciamo spesso in ambiente freddo, quindi c'è un ulteriore consumo legato alla necessità di mantenere la temperatura corporea, quindi è anche molto efficace in termini di dimagramento. Ci mancano lo snowboard, vantaggi e limiti, e lo sci d'alpinismo, ma abbiamo Maurizio che ci chiama dalla provincia di Milano e poi noi continuiamo. Maurizio, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la vostra splendida trasmissione. Grazie. Ecco, io volevo spezzare una lancia sul telemark di cui non avete parlato. Bravo Maurizio, veda il dottor Confalonieri, ecco, che non ci ha parlato del telemark. Allora, grazie io, Maurizio. Ecco, io sono telemarker, è una tecnica di discesa, è una tecnica un po' faticosa, però è apprezzabile sia su pista che fuori pista. Io la uso anche come una tecnica di sci alpinismo medio, per la fatica ovviamente salgo e scendo, è splendido sciare su neve naturale con la tecnica del telemark. È un po' faticosa, non piace molto ai giovani, però io dico che è anche un'ottima ginnastica. Non importa se non piace tanto ai giovani, la facciamo noi. Me la descrive però Maurizio, perché magari raccontata con la sua passione convinciamo qualcuno a convertirsi a questa tecnica. Niente, in un minuto, la tecnica del telemark è legata a un modo di fare la curva per scendere, cioè al posto di fare la tecnica parallela che abbiamo imparato dagli austriaci, al posto di scendere a sci parallelo si fa una sorta di inginocchiamento, per cui lo sci prende la curva e noi seguiamo la curva muovendoci come se dovessimo fare un passo, cioè dovessimo mettere una gamba dopo l'altra scendendo da una discesa. Proprio sì. Una tecnica che ricorda molto il passo dell'uomo. L'uomo quando cammina mette un passo dopo l'altro. Ecco, questo è il modo per girare. Ovviamente richiede un po' di tecnica ed è l'antico modo di curvare che avevano i norvegesi quando hanno inventato lo sci. Tutto qua. Maurizio, ma lei l'ha imparata facilmente? Faceva sci da discesa normalmente, no, e poi si è convertito al telemark? Io sono nato fondista e poi ho voluto imparare a scendere col tallone libero, perché è una tecnica che richiede uno sci a tallone libero, laminato, come sì. uno sci d'alpinismo, e con un attacco che permetta di tenere il piede sulla punta fermo. Ok. Niente, è un puro divertimento. È un puro divertimento, assicura Maurizio. Dottor Confalonieri, lei l'ha mai fatto? No, non l'ho mai fatto. Che dice? Perché non lo prova poi ci viene a raccontare? Bisogna vedere quanto è difficile tecnicamente. E sicuramente è stata molto importante questa testimonianza, nel senso che il telemark è proprio legato alle origini del rapporto dell'uomo con la montagna e con lo sci, ed è particolarmente diffuso nei paesi del nord, dove la cultura di questo tipo di sport è estremamente diffusa. Direi che un po' come lo sci alpinismo, nel senso che poi col telemark si fa salita e discesa, coniuga i vantaggi dello sci da fondo e dello sci da discesa, così completo anche la risposta alla sua domanda precedente, nel senso che con lo sci alpinismo o con queste tecniche noi abbiniamo un lavoro molto efficace sul piano cardiovascolare e respiratorio nella fase di salita o di pianura, con un lavoro che rappresenta un potenziamento specifico importante nella fase di discesa. Quindi questo tipo di sport è assolutamente completo, peraltro relativamente complesso, e richiede, così come ricordava giustamente Stefania Belmondo all'inizio, anche una buona dose di prudenza, perché purtroppo questa grande diffusione dello sci alpinismo non si è accompagnata da un'uguale diffusione della cultura della montagna, e noi sappiamo che la montagna e il mare sono due grandi maestri e quindi sono anche spesso pericolosi. Gianni ci chiama dalla provincia di Brescia. Buongiorno Gianni. Buongiorno a tutti. Io avevo una domanda per il dottor Confalonieri, in questo senso. 3 anni fa mi sono rotto il tendine rotuleo e ho dovuto limitare drasticamente gli sport che faccio. Volevo sapere se però il fondo era possibile farlo. Grazie Gianni, le piacerebbe? Decisamente. Mi sono innamorato più che altro del biathlon, però il biathlon diventa ancora più complicato, almeno il fondo potrebbe essere un surrogato. Grazie Gianni. Dottor Confalonieri, lo mandiamo o no? Ma se trovasse degli impianti dove può fare il biathlon, uno degli sport che io amo di più in assoluto, che seguo con maggiore piacere. Cosa vuol dire biathlon? Cioè l'abbinamento di sci da fondo e tiro. Quindi è uno sport che unisce l'impegno di tipo aerobico classico dello sci da fondo con un impegno a forte contenuto di concentrazione e di coordinazione come il tiro. Lo trovo uno sport straordinario e invito davvero tutti a provarlo. E rispetto al problema di Gianni, indubbiamente sì, può fare dello sci da fondo anche con un tendine rotuleo rotto, perché la sollecitazione non è particolarmente impegnativa, però io prima o poi, vista questa sua passione per lo sport, affronterei anche da un punto di vista chirurgico questo problema, insomma. Siamo tornati insieme e io volevo lanciare un appello al nostro amico della poltrona. Il dottor Confalonieri è tornato, ma lui oggi non ci ha scritto e vedo un po' di tristezza. Sì, vogliamo sapere come vanno le sue gite in canoa sul Po. Ormai lo seguiamo da anni, c'è anche un certo affetto, quindi insomma, se ci fa sapere qualcosa siamo contenti. Allora, invece ho un messaggio di Stefano da Udine molto simpatico che ci scrive: ok che con lo sci da fondo si dimagrisce, ma il dottor Confalonieri non tiene conto della polenta con salsiccia che si mangia dopo. Ma difatti, voglio dire, io concettualmente sono favorevole al fatto di fare un po' di sport per potersi concedere poi la grande gioia della polenta con salsiccia, magari però a cena e non nell'intervallo di mezzogiorno, perché questo è un altro piccolo problema. Cioè la tradizione dello sci si accompagna con queste pause nei rifugi in cui si mangia e soprattutto si beve in modo abbondante, magari ci si concede anche il grappino alla fine del pasto per riscaldarsi un po'. Ecco, al di là del fatto che è assolutamente controindicato l'alcol, perché comportando vasodilatazione espone maggiormente al freddo e non riscalda, oltretutto questa pratica, tutto sommato diffusa soprattutto fra i giovani e fra i praticanti dello snowboard, è davvero pericolosa, perché la birra o il vino durante una sciata comportano un significativo rallentamento dei riflessi, e siccome nello sci i riflessi sono fondamentali in funzione delle variazioni del terreno, parlava delle gobbe pomeridiane proprio Giorgio Rocca all'inizio della trasmissione, e in funzione del fatto che incrociamo altri sciatori, quindi queste variabili sono assolutamente all'ordine del giorno, io sconsiglio vivamente sia di mangiare molto, sia soprattutto di bere durante una giornata di sci. Facciamolo dopo, godendocelo davvero, ma in serata. E possiamo anche aggiungere come sicurezza di indossare il casco. Assolutamente sì, ecco. Assolutamente sì, perché questo ci consente di evitare grossi problemi che spesso poi non sono imputati a noi, ma sono imputati a qualcun altro. Quindi anche il grande sciatore che dice ma io non ho problemi, sono bravissimo, sì, ma non sai come saranno gli altri, certo, che incontri sulle piste. Allora, tra poco, quando mettere i bambini sugli sci, tantissimi messaggi, è presto, è tardi, possiamo farlo insieme. Un messaggio molto carino ce l'hanno mandato due genitori che dicono: non abbiamo mai sciato, il nostro bambino di 3 anni vuole sciare, potrebbe essere un'occasione per farlo tutti insieme. Si prepari, perché adesso andiamo a Lecco, dove ci aspetta Luciano. Buongiorno. Buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione, molto interessante. Io vivo la montagna, estate e inverno, in modo molto intenso. D'estate arrampicare, camminare, trekking. D'inverno, per darvi un'idea, io sabato ho fatto 20 km con le ciaspole nella neve e altrettanti ne ho fatti domenica. Scio per 6-7 ore quando vado a sciare, o faccio sci alpinismo, o faccio sci da discesa, insomma, eccetera. Luciano, non si riesce a fermare. Sì. Ho solo un piccolo problema. Sono alto 1,70 m e peso 110 kg, non perdo un grammo che uno. Ho dei tempi di recupero buonissimi, non ho patologie né niente, però non perdo un grammo. Non perde un grammo, si sono affezionati, ma si vede che stanno bene, Luciano, li tratta bene, loro non se ne vanno. Dottor Confalonieri. Eppure Luciano si muove, ma non sì, dite, non gli dica faccia una mezz'ora di passeggiata, perché no, lui assolutamente ne fa fin qui. Il problema purtroppo è che i chili si perdono in funzione del bilancio tra quanto si introduce e quanto si consuma. Quindi Luciano, che mi sembra un uomo capace di interpretare la vita con i suoi piaceri al meglio, probabilmente anche un buon mangiatore e conseguentemente non perde peso. Però direi, per incoraggiarlo, che il fatto di fare regolarmente attività fisica senza grosse difficoltà significa che al di là del sovrappeso c'è una grande efficienza dell'apparato cardiovascolare, quindi i rischi per la salute legati al sovrappeso sono fortemente ridotti. Andiamo ai bambini invece. Sì. Quando, come, perché? Ma direi che i 3 anni di cui parlavano i nostri amici di Roma sono un po' il limite per cominciare, io direi verso i 4-5 anni forse ancora meglio. I bambini iniziano molto presto e hanno difficoltà molto ridotte, proprio perché essendo bassi, piccoli, sì, hanno un baricentro molto vicino al terreno e quindi fanno molta meno fatica a sciare di noi. Si divertono molto, quindi sono sicuramente favorevole a farli cominciare verso i 4-5 anni, anche perché questa esperienza motoria diversa gli consentirà di incrementare e di aumentare la loro intelligenza motoria. Lezioni collettive, oppure è meglio che se il papà o la mamma sanno sciare, se si portano dietro il piccolino? Se c'è la possibilità economicamente, io sono assolutamente favorevole alle lezioni collettive, perché il gruppo comunque è un elemento importante per la crescita del bambino. Luigi ci chiama da Ancona. Buongiorno Luigi, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Complimenti per la trasmissione, ma soprattutto alla conduttrice. Oh, grazie Luigi, oggi mi fa bene perché sono molto malata e allora qualche coccola mi tira su, mi sento già meglio, grazie. Sono contento anch'io. La mia domanda è questa, non so se è stata fatta, perché io, diciamo, sono arrivato in trasmissione a sentirla un po' tardi. Proviamo. Io ho una ernia al disco, una e mezza, anzi, una L4 e L5. Volevo chiedere se è possibile fare sci di discesa, cioè se è possibile, se è consigliabile. Se è consigliabile. Grazie Luigi. Dottor Confalonieri. Diciamo che non è lo sport ideale, nel senso che comunque ci sono importanti sollecitazioni per la colonna, però se questa ernia è un'ernia ormai quasi cronicizzata, ben stabilizzata, con un compenso muscolare che consente di ridurne gli effetti negativi, con prudenza, ma il nostro amico può sciare. Silvana invece ci chiama da Vercelli. Buongiorno Silvana. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie Silvana. Io volevo sapere questo. Io sono stata operata al menisco anni fa e io facevo un po' sci da discesa. Mio marito invece ha avuto un'importante operazione ai legamenti quando aveva 18 anni a seguito di un incidente. Noi siamo camminatori in montagna in estate. Ci piacerebbe fare sci di fondo, volevo sapere se c'è qualche problema, visto insomma i nostri problemi fisici, ecco. Grazie Silvana. Dottor Confalonieri. No, assolutamente sì, lo possono fare, anzi gli farà bene farlo, perché questo tipo di attività consentirà di rafforzare complessivamente la muscolatura della gamba, di stabilizzare il ginocchio e quindi di ridurre anche le eventuali problematiche, che peraltro dovrebbero essere molto ridotte perché entrambi sono stati sottoposti ad intervento chirurgico, quindi dovrebbero aver risolto il problema alla base. Allora, abbiamo parlato di piste da sci, però io vi ricordo che c'è un appuntamento importante nelle piazze italiane, l'appuntamento con l'AIL, l'Associazione Italiana Contro le Leucemie, perché fino all'8 dicembre l'AIL offrirà, grazie all'impegno di migliaia di volontari, in 3.500 piazze italiane, oltre, pensate, 800.000 stelle di Natale, e con un contributo minimo associativo di 12 euro si può contribuire a rendere queste malattie sempre più curabili. Se volete saperne di più potete andare sul sito dell'AIL, www.ail.it. Poi invece volevo dirvi un'altra cosa, volevo avere un vostro sorriso. Nella prossima settimana, nella puntata di martedì, parleremo di sorriso, di bellezza del sorriso. Allora, se avete voglia di fotografare il vostro sorriso e di inviarcelo via mail, qua in diretta insieme ai nostri esperti vi daremo un occhio e praticamente vi aiuteremo a capire che cosa può essere migliorato del vostro sorriso. Parleremo di sbiancamento, di denti. Dottor Confalonieri, lei non mi sorride mai? No. Neanche oggi che sono malata? Un sorriso sarei guadagnato. Allora mandateci sorrisi, intanto un sorriso a tutti, buona giornata, passatevi questa fine settimana con i vostri amici più cari, i vostri familiari sulle piste, ma mi raccomando, in grande sicurezza. Mettete il casco. Dottor Confalonieri, lei cosa vuole aggiungere? Non bevete? No, beh, bevete la sera eventualmente e non troppo, soprattutto se poi guidate. Allora un saluto a tutti, grazie dottor Confalonieri, venerdì prossimo torna, ci no? sarò senz'altro. Va bene, torna a trovarci venerdì, noi ci sentiamo domani con Questa Casa Non È Un Albergo e lunedì dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone.